I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. La discussione anche ieri in Commissione Affari Costituzionali del Senato della riforma della pubblica amministrazione, quella proposta dal ministro Marianna Madia, verte tutta su un aspetto che può sembrare marginale o strumentale, ma in realtà è il cuore della vicenda. E non si tratta tanto o soprattutto dell'applicabilità anche al pubblico impiego delle nuove norme sul reintegro o invece sull'indennità nel caso di un lavoratore licenziato ingiustamente. Si tratta di andare ancora più a monte, perché nella pubblica amministrazione i casi di reintegro sono poche decine. Quello che manca è la possibilità di arrivare attraverso una semplificazione della normativa a una licenziabilità o meno del pubblico dipendente. Non sfugge infatti che tutta la riforma del Jobs Act in questo momento si scarica sul settore privato ed è lo stesso ministro Madia a chiedere di semplificare tutta la normativa sui procedimenti disciplinari e sul tema della valutazione, ossia del merito, da introdurre in maniera finalmente efficace nella pubblica amministrazione. Lo stesso ministro ha sottolineato come esistano tra pubblico e privato differenze oggettive che, se non si risolverà il tema della valutazione e della normativa disciplinare, dal nuovo Jobs Act risulteranno ancora più ampie tra il privato e il pubblico. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Oggi la Banca Centrale Svizzera ha deciso di cancellare il tetto al cambio del franco con l'euro. Il tetto era pari a 1,2 franchi per ogni euro ed era stato introdotto nel 2011 in piena crisi dell'euro, perché le autorità di Berna volevano evitare che la valuta elvetica si apprezzasse troppo. Dopo l'annuncio della Banca Svizzera oggi, il franco si è subito rafforzato fino a 0,85 per un euro, per poi risalire poco sopra la parità. Contemporaneamente, proprio con l'obiettivo di evitare un eccessivo apprezzamento del franco, la Banca Centrale Svizzera ha deciso anche di tagliare i tassi, che ricordiamolo in Svizzera sono già negativi, e li ha portati a meno 0,75%. Cerchiamo di capire che cosa è successo. La Banca Centrale Svizzera ha semplicemente detto che la soglia fissa non poteva durare per sempre. In realtà, secondo molti analisti, la banca centrale non era più nelle condizioni di acquistare euro per tenere il cambio ancorato alla soglia di 1,2. A maggior ragione ora che la Banca Centrale Europea si appresta la prossima settimana all'acquisto massiccio di titoli pubblici, che avrà ancora l'effetto di indebolire l'euro. Una mossa difensiva che però non è stata accolta bene né dalla borsa di Zurigo, che diciamo a metà pomeriggio perdeva intorno il 9-10%, né ovviamente dalle imprese elvetiche, molto preoccupate dall'impatto negativo sull'economia del paese. Un paese che, non scordiamolo, dipende in misura rilevante dalle esportazioni, cioè da quelle attività che vengono fortemente penalizzate quando la valuta di riferimento si rafforza. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.